sono diventato cattivello. Finora sono stato quello bravo, adesso viene il bello. Finora sono stato quello bravo. Finora sono stato quello bravo. Finora sono stato quello bravo. Pregiudizi, schizzi di sfregi più dissing che inneggi, creo mi restano i piedi già dagli inizi, ma su restano i veri, si ferisce chi no, riverisci poi me, lo riferisci una board. Sono il freak al mic, coi tricks di una bomba, alieno come un Highlander nelle catacombe, allievo di nottate, autodidatte in latex, perché dietro mi frustate ma davanti quante pompe. Ups, I did it sui loop, quale Britney, io mi faccio le autospear come Edge, righe dai fogli, io non sciolgo il vostro gelido alla Britney, sia che mando sinapsi in autopsia quando rileggi. Alimento i miei calli di insulti fallimentari, perché ho alimentali, scala mercalli. Tutti amici quando serve, quando no, tutti amici. Volete pesci cani, saremo tali e squali. Boom boom, lui adesso suona e suona forte, suona. Boom boom, lui adesso suona e suona stronzo, suona. Boom boom, lui adesso suona e come suona, suona. Boom boom, suona. Boom boom, finora sono stato quello bravo, bravo. Finora sono stato quello bravo, bravo. Finora sono stato quello bravo. Io non sorrido più di tanto, tanto è vero, dammi il guanto, perché più vuoi essere fossi, tipo più ricevi siero i voti. Si possono alzare ma ahimè, linea trema nel mio cranio, c'è un pittore con l'Alzheimer. O era il Parkinson, fuori dai parchi, monzoni di guerra, allora speri che mi imbarchi. Boh, suoni più figo, allora diglielo agli altri, dei più gagliardi, ho i gagliardetti dei loro infarti. Non mi faccio né fregare, né pregare, né depredare nel mio dare coraggio a chi è lì solo se gli servi. Servi che non vedono palchi, neanche se montano servi. Se servi, cervicalizzo col rap, perché non riesco a picchiare al di fuori del boom bap. So che amici quando serve, quando no, tutti ami. So che se ero quello bravo, ora sono fra quelli bravi. Boom boom, lui adesso suona e suona forte, suona. Boom boom, lui adesso suona e suona stronzo, suona. Boom boom, lui adesso suona e come suona, suona. Boom boom, suona. Boom boom, boom boom, lui adesso suona e suona forte, suona. Boom boom, lui adesso suona e suona stronzo, suona. Boom boom, lui adesso suona e come suona, suona. Boom boom, suona. Boom boom, boom. Sì. Johnny Walker al mic, Ermatico al beat, 007. Sì, sì, ci sono due investigatori perché l'hanno. Cioè, due 007. Peace.